Viva Voce con Alessandro Milan. Sono le 9:08, gentili ascoltatori, ben ritrovati. 800 24 00 24, questo è il numero per intervenire in diretta. La mail vivavoce@radio24.it. 70 anni fa, 1938, in Italia furono promulgate le leggi razziali che aprirono poi alla persecuzione e dunque successivamente allo sterminio di molti ebrei. La pagina più vergognosa del Parlamento italiano l'ha definita il presidente Gianfranco Fini, presidente della Camera. 70 anni dopo, questo è un paese in cui esiste anche spazio, per esempio, per un professore negazionista che insegna in un liceo di Roma, notizia di qualche giorno fa. Esiste ancora spazio per qualcuno che mette su internet delle liste di professori ebrei o ritenuti ebrei che insegnano alla Sapienza di Roma, ricordate qualche tempo fa. Esiste anche chi, come un tale gruppo musicale che si chiama 99 Fosse, scrive canzoni i cui testi irridono alla Shoah, irridono Anna Frank, scrivono un CD che si intitola Zyklon B, che per chi non lo sapesse è il pesticida che veniva usato per sterminare gli ebrei nei campi di concentramento. Inevitabile scatta la solita domanda: parlarne, non parlarne, minimizzare sono le solite mele marce, oppure no, giusto tenere viva l'attenzione su un tema così delicato. Noi abbiamo deciso di parlarne, lo facciamo oggi con un testimone e un ospite che ci è venuto a trovare in studio. Si tratta di Nedo Fiano, che saluto. Buongiorno e benvenuto, Fiano. Buongiorno. Grazie di aver accettato l'invito. Nedo Fiano è uno che ad Auschwitz-Birkenau è stato testimone di quel orrore. Fiano, lei quanti anni ha? 83. 83 anni. Inizieremo questo racconto dopo aver sentito come ha aperto la borsa. Prima le chiedo semplicemente che sentimenti prova, che sensazioni le suscitano sapere che esiste ancora spazio in questo paese per un professore negazionista, per qualcuno che scrive canzoni di questo genere? Ma in estrema sintesi provo un disgusto, qualcosa che in parte mi ha sorpreso. Nel senso, mi aspettavo che questo fuoco progressivamente potesse spengersi. Dall'altra, una rivolta interiore, perché sembra quasi impossibile che questo dramma, che è costato alla vita 6 milioni di persone, lungi dall'essere deprecato, possa essere esaltato e peggio ancora negato, insomma. Il disgusto prevale su tutto. Mi sembra che manchi anche una serie di leggi che limitino severamente questo appropriarsi della storia e di propalare notizie che sono velenose fra i giovani nelle scuole, quindi agiscono liberamente, nessuno li ferma. Senza impunità. Senza impunità. Io non lo so se oggi avete voglia di chiamarci, se avete voglia di porre domande a Nedo Fiano, se avete voglia solo di ascoltare. Se volete accompagnarci in questo percorso, 800 24 00 24 per porre le vostre domande. 9:14, 800 24 00 24 se volete intervenire. Ospite, come detto, oggi è Nedo Fiano. Nedo Fiano è stato ad Auschwitz-Birkenau, tra l'altro Nedo Fiano ha scritto un libro, Il coraggio di vivere, edito da Monti. Non è un libro di questi giorni, ma voglio dire è un libro più che mai attuale, nel quale poi lo ricorderemo il titolo, se ci volete anche scrivere ve lo ricorderemo via mail, nel quale ha raccontato per la prima volta questa esperienza. Numero Nedo Fiano è anche scritto sulla copertina del suo titolo, il suo numero di A5405. A5405, Nedo Fiano, Il coraggio di vivere. Senta, quando furono promulgate le leggi razziali in Italia 70 anni fa, lei era un giovinetto di 13 anni che viveva a Firenze. Sì, a Firenze, sì. Che successe praticamente a lei? Beh, mi crollò il mondo addosso, non ero assolutamente preparato, come del resto nessuno, anche gli altri, insomma. Non ero preparato a una catastrofe del genere, cacciato da scuola, papà cacciato dal suo lavoro, mamma pure, insomma. Sono cresciuto in maniera accelerata, c'è stata un'accelerazione nella mia crescita perché il dolore fa maturare più velocemente. Ho cominciato a pensare, a cercarmi dentro e una delle cose che più mi amareggiò fu quella di perdere tutti i compagni con cui ero cresciuto dalle elementari e soprattutto constatare la loro indifferenza, la mancanza di solidarietà. Questa parola che nei dizionari si accompagna a tante altre, ma che nella vita è il bene supremo, la solidarietà, la condivisione, mancò. Ecco. A questo proposito, lei nel libro, che è un ricordo di quello che fu, di quella che fu la sua tragedia e quella di molte persone, ma è anche un vivere quella tragedia nell'oggi, in questi certo. Frammenti che lei ogni tanto scrive nel libro e che calano tutto quella realtà nell'oggi. Scrisse una lettera a quei compagni di una scuola che fu. Io, la scuola era la scuola Gino Capponi, lontano 1938. Visto che ne voglio approfittare, questa lettera ce l'abbiamo qui e vorrei che lei ce la leggesse. Una lettera che lei scrisse per quei compagni che disse, che ci ha appena detto non mostrarono solidarietà. Ce la vuole leggere? Amici miei, vi ho riunito qui per parlarvi dopo quasi 60 anni. Questo incontro l'ho pensato e sofferto per lungo tempo. Peccato che anche voi non abbiate sentito il bisogno di parlare al vostro amico Nedo, cacciato dalla vostra scuola Gino Capponi nel lontano 1938 dalle leggi razziste. Da quel giorno così drammatico per me e per la mia famiglia, ho sempre sognato che qualcuno di voi mi cercasse, mi parlasse, mi spiegasse il perché di quel vostro silenzio così pesante. Ho sofferto drammaticamente la cacciata da scuola, ma ancor più la perdita di tutti i miei compagni in una giornata infausta. Mi siete mancati, anche se poi mi sono accadute vicende ancora più dolorose. Perché? Perché non mi avete detto una parola di solidarietà, né durante né dopo quelle leggi barbare? Forse avete avuto paura, non so. Da quell'esperienza e da altre ho trovato la mia saggezza e così resto col mio dolore e lascio voi col vostro rimorso. Malgrado tutto vi abbraccio lo stesso e resto il vostro Nedo. Lei radunò qualche anno fa tutti i suoi ex compagni, scrisse questa lettera, però decise di non leggerla, una volta che aveva di fronte a sé tutti i suoi compagni o ex compagni. È molto vero. Non sono del tutto convinto della mia scelta, però ricordo, fummo in un bel albergo di Firenze, questa tavola a ferro di cavallo, e vedi tutti questi miei ex compagni, tutti bianchi, tutti canuti, insomma, non me la senti di farlo, era passato tanto tempo, questo j'accuse che loro meritavano. Beh, io l'ho scritto, sicuramente l'hanno letto, nessuno di loro per l'ennesima volta ha avuto il coraggio di prendere il telefono e di chiamarmi. È andata così, ma il grave è che è andata così in molte, molte centinaia di casi, in molte famiglie. Non c'è stato un comportamento molto, molto adeguato. Insomma, non se la sentì di infliggere loro che cosa? Il senso di colpa che secondo lei probabilmente già portano dentro. Ho temuto di non riuscire a trasferire in loro, non il mio risentimento, insomma, la mia ferita, insomma. Mi erano mancati i compagni di viaggio, quelli con cui avevo giocato al pallone, fatto a botte, non so che cosa. Io da un giorno all'altro mi sono ritrovato solo, e questo francamente è una cosa che mi ha ferito e mi ferisce tuttora. Senta, lei nella lettera, facendo al fatto poi mi capitarono cose ben peggiori, le cose ben peggiori ovviamente furono Auschwitz. Tanto per capire il clima di quello che fu Auschwitz, subito dal viaggio si capì. Lei fu arrestato, fu portato al campo di Fossolo in provincia di Modena, e poi ci fu questo viaggio, 7 giorni, 7 notti. Ce lo vuole descrivere? In treno, ovviamente. Sì. Definiamolo treno. Descriverlo richiederebbe molto tempo. Comunque, nel nostro vagone eravamo 56-57 persone. Compressi, non era possibile distendersi, sedersi. Io devo dire, ricordo in quel viaggio gli occhi verdi di mamma, con una straordinaria eloquenza esprimevano il dolore, esprimevano la sofferenza, esprimevano un pessimismo che ormai era inevitabile. Mamma, papà non parlava, era in un angolo del vagone, in piedi, statuario. Mamma invece mi accarezzava di tanto in tanto, e per me era una cosa meravigliosa, le sue carezze. Lei mi chiamava Ricciolino. Questo viaggio era interminabile, noi abbiamo fatto 1300 chilometri. Ci furono dei fatti, come dire, particolarmente toccanti. Una volta al giorno questo convoglio si fermava fuori dalle stazioni, venivano aperti i vagoni e i deportati potevano dare sfogo ai bisogni fisiologici, e allora vedere centinaia di persone che si allentavano o i pantaloni o le gonne, un abbruttimento proprio, era la dignità di ognuno era finita ormai, eravamo un branco di animali portati in giro per l'Europa. Abbiamo attraversato l'Austria, la Cecoslovacchia, la Polonia, eravamo irriconoscibili a noi stessi, insomma il tempo scorreva ma non secondo la regola delle ore che si succedono, non avevamo più la sensazione né del luogo né dell'ora, eravamo portati fuori dal nostro mondo, soprattutto non riuscivamo a capire dove ci avrebbero portato e né che cosa ci avrebbero fatto. Io devo dire la verità, soffrivo molto per mamma, avrei voluto essere grande, forte, capace di portarla fuori da quell'inferno, ma insomma, ovviamente. Senta, l'arrivo ad Auschwitz, lei lo ha raccontato tante volte, perché Nedo Fiano va in giro per le scuole, parla ai ragazzi, incontra le persone, insomma, per raccontare, per il dovere di raccontare e perpetuare la memoria. L'arrivo ad Auschwitz fu un arrivo che fu anche impattante dal punto di vista dei suoni, della durezza, della violenza. Arriva ad Auschwitz. PAM! Questa è stata la riva d'Auschwitz. Il treno è stato, il convoglio è stato volutamente arrestato nella maniera più dura, più atroce. Siamo andati gli uni contro gli altri, ci sono stati dei feriti, urla, pianti da tutte le parti. Vorrei cercare, senza riuscire, spiegare cosa vuol dire una settimana di fame, di sete, di paura, di sporco, senza poter cambiare gli indumenti, senza potersi lavare. Eravamo arrivati a una condizione subumana. Questa frenata fu sconvolgente, dilaniante. Poi era notte fonda, abbiamo visto per la prima volta una ciminiera dalla quale fuoriusciva una fiamma. Abbiamo pensato che fosse uno stabilimento industriale, uno stabilimento dove avremmo dovuto lavorare. Non avevamo mai sentito parlare di forni crematori, quindi... E dopo, al mattino, abbiamo sentito passo militare che si avvicinava al nostro vagone e agli altri. C'era un SS con un bastone, un Doberman, e a un certo comando hanno aperto il vagone e hanno cominciato a gridare: aussteigen, alle steigen, alle runter, runter los, bewegung, bewegt euch, e cose del genere. Questi cani che abbaiavano, e loro con questo bastone infierivano su tutti, fossero donne, bambini, vecchi. Eravamo un gregge che si doveva avviare al mattatoio. Devo dirle che fra queste 600 persone c'erano grida in tedesco, in inglese, in italiano, in francese, i mariti che cercavano le mogli, i figli che cercavano i genitori. E proprio la discesa agli inferi è questo che nel pensiero rinnova la paura. Proprio vedo quella scena che ci travolse. Non avevo mai assistito a questo correre folle delle persone urlanti, piangenti. Poi Männerlings, Frauenrechts, ci hanno diviso a sinistra, a destra, uomini, donne, e la mamma ha detto: Ledo, Ledo, Ledo. Abbracciami, abbracciami, non ci vedremo mai più. E così è stato un abbraccio fortissimo. Mamma piangeva dirotto e il mio volto è scivolato sul suo, ricordo. E... poi ci hanno strappato. Io le voglio far ascoltare un qualcosa che al nostro Dario Ricci aveva raccontato Liliana Segre, che è stata anche lei ad Auschwitz. Certo. Non c'è bisogno di presentarla a lei, insomma, agli ascoltatori. Probabilmente non lo sanno. Liliana Segre, anche lei ha un'immagine di questa sua divisione, una divisione che fu una divisione per sempre violenta, da suo padre. È diversa da quell'abbraccio che lei ci ha appena raccontato. Vogliamo sentire cosa Liliana Segre ha detto a Dario Ricci? Qual è l'immagine che le rimarrà per sempre del distacco da suo padre? Nella Cappella Sistina c'è quell'affresco che tutti conosciamo, in cui Dio avvicina la sua mano a quella dell'uomo. Beh, quello che posso lasciare io come ricordo di Auschwitz è il contrario. Due mani che si allontanano, che sono la mano mia e quella di mio papà. Un addio diverso dal suo. Molto bello. Ospite in studio oggi è Nedo Fiano. Nedo Fiano, che è sopravvissuto ad Auschwitz, ad Auschwitz-Birkenau, e ci sta raccontando la sua esperienza. Oggi abbiamo voluto farlo perché sono tempi un po' strani, un tempo in cui appunto c'è qualcuno che nega la Shoah. Visto che qualcuno ci vuole accompagnare in questo viaggio, 800240024, saluto Massimo da Milano. Buongiorno Massimo. Buongiorno. Dica. Innanzitutto i miei omaggi al signor Nedo. Stavo ascoltando quello che diceva, mi ha toccato molto, mi ha rabbrividito. Io ho 50 anni, quindi negli anni 60 alle scuole elementari ho vissuto di riflesso quello che è accaduto anni prima. soffro ancora moltissimo quando sento parlare di queste cose e sono scioccato, scandalizzato, deluso dal comportamento di certa gente che in questo periodo si permette di fare quello che lei ha descritto all'inizio della trasmissione. Di negare. Sono grazie a Dio pochi, ma come al solito anche solo uno che nega sono troppi, insomma. Comunque Massimo, la ringrazio per questa sua testimonianza. Vado a Torino da Giancarlo. Buongiorno Giancarlo. Pronto, buongiorno. Dica. Volevo chiedere a questo signore che partecipa alla trasmissione qual era la vita al campo, cioè cosa si faceva in quel periodo in cui lui era prigioniero e come ha fatto a salvarsi, cioè nel senso come ha fatto a ritornare in Italia. Bene, grazie Giancarlo. Aggiungo a questo, Nedo Fiano, alla domanda di Giancarlo. Lei nel libro lo scrive che nel campo di sterminio ogni tanto sognava la mamma e sognava la scuola, quella scuola di cui abbiamo parlato. Si può sognare anche in un campo di sterminio? Beh, anche questa domanda sua la trovo molto stimolante. In un campo di sterminio, quando arrivava il momento di distendersi nelle nostre cucce, eravamo letteralmente aggrediti dal sonno per una stanchezza che in genere ci impediva sonni tranquilli. Pensare... C'era un comandamento ad Auschwitz che suonava nicht denken, non pensare, perché secondo gli anziani pensare era un veleno, era un procurare un indebolimento che non faceva bene. Ma comunque ho sognato qualche volta, io poi con mia mamma sogno tuttora, è sempre con me. Fisicamente l'hanno uccisa, ma insomma lei resta nel mio cuore. E nel campo più di una volta mi sono... l'ho contattata, mi ha dato coraggio. Per quanto riguarda invece la vita nel campo, direi la morte, perché non era un campo da... insomma, se si pensa che nel campo di Auschwitz dal 1942 fino al 1945 sono stati bruciati complessivamente 2,5 milioni di persone, se si pensa che questa carneficina era fatta attraverso l'impiego di 4 forni crematori, ognuno di questi forni crematori aveva 16 bocche, ecco... Cosa posso dire? La nostra, la vita, quella specie di vita, quella sopravvivenza chiedeva a noi una grande forza interiore, perché quella era la negazione della vita. Eravamo giornalmente a contatto con episodi drammatici. Io mi sono salvato perché parlavo il tedesco, perché avevo 18 anni, ero in una buona condizione fisica, perché cantavo anche qualche volta. Non so, c'è una serie di ragioni per cui in qualche maniera ho potuto tenere la mano sulla vita e non allontanarmene. Questo è costato un prezzo altissimo. Io sono stato per mesi come interprete alla banchina della stazione all'arrivo da tutte le parti d'Europa, gente logora, sporca, distrutta. Voglio dire, anche mia mamma, quando io l'ho abbracciata, nell'arco di 4 ore sarebbe stato un mucchietto di cenere che sarebbe stato poi rovesciato sulla vistola. Noi sapevamo tutto questo, non dovevamo confessarlo, ma erano drammatiche le domande. Dove siamo? Cosa ci fanno? Cosa dovremo fare? Noi cercavamo di dare parole molto sintetiche, era proibito intavolare lunghi discorsi, ma abbiamo visto arrivare vecchi, bambini, donne. È stato interessante. Dall'Olanda una volta è arrivato un convoglio aperto il vagone, ne sono uscite tre donne completamente nude che si sono buttate sul filo spinato. Abbiamo una volta io in servizio di notte, è arrivato un convoglio dalla Francia di soli bambini, bambine, bambini, ragazzi, che sono usciti saltellando dai vagoni perché finalmente anche loro dopo una settimana più o meno potevano finalmente correre e camminare, avviati tutti in toto al forno crematorio senza nessuna selezione, nessuno si è salvato, e con loro i loro insegnanti, i loro giocattoli, i loro sogni. Senta Fiano, essere vivi non è mai una colpa, ma può diventarlo? Può esserci il senso di colpa di essere sopravvissuti ad Auschwitz? Ma non c'è una sola risposta. Io dico sempre che il giorno in cui il Signore mi domanderà «Ma tu cosa hai fatto nella vita?» Io risponderò «Io ho ricordato». Voglio dire che la domanda è quando non ci sarà più nessuno che ne parlerà e saremo l'umanità sarà nelle mani di questi delinquenti negazionisti. Io da una parte sono felice di poter essere incaricato di trasmettere questo messaggio, ma ancora mi domando come sarebbe stata la mia vita se non avessi perduto tutta la famiglia, cosa avrebbero potuto fare, perché poi io sono sopravvissuto e loro no. Sì, sono le domande che di tanto in tanto mi aggrediscono, per le quali non sempre ho la risposta. Andiamo a sentire cosa ci vuol dire Annalisa da Roma. Annalisa, buongiorno. Buongiorno a voi. Innanzitutto sono profondamente toccata dal racconto fatto dal signor Nedo e direi commossa anche sentendo la sua voce a tratti così rotta da quel ricordo straziante. Ecco, io vorrei chiedergli come si spiega questo signore questo rigurgito di odio, di così ideali tra virgolette nazisti, soprattutto tra i giovani. Come se lo spiega Nedo Fiano? Ed è giusto parlarne, minimizzare, no invece anche se fossero pochi? No, dobbiamo essere in guardia, questo senz'altro. E come se lo spiega lei? Chiede Annalisa. Ma il problema della libertà, che voglio dire che non c'è il tempo per affrontarlo, ma la libertà dovrebbe avere dei limiti, non ci dovrebbe essere la libertà di dire queste infami storie, negare la verità storica. In alcuni paesi è vietato, come la Francia, come la Germania, è vietato negare la Shoah. In Italia si può dire che la Shoah era la cosa più putrida, più infame, più bugiarda. Devo dire, io... C'è la legge Mancino, in realtà, quella legge, però forse, ecco, poi... Siamo ne abbiamo tante di leggi. Ecco, appunto, poi... E comunque, qui ci sono, credo ci sia l'effetto familiare, quando uno ha avuto il padre coinvolto in certi episodi della Repubblica Sociale, certe connivenze... capisco che si voglia difendere i genitori, ma perché per difendere i genitori uno insulta una generazione di persone che è passata attraverso quel fuoco, quindi no, io non sarei per lasciare il campo libero a queste menzogne, soprattutto perché ci sono, il nostro mondo è fatto di persone adulte, persone anziane e ragazzi. Queste cose attecchiscono quei ragazzi, è pericoloso. Tra poco voglio ricordare ancora il libro che ha scritto, perché poi chi vorrà leggere per bene la sua esperienza potrà... Ce n'è un altro in arrivo. Ce n'è un altro in arrivo, bene. Senta Fiano, ma è vero che lei... tiene sullo studio di casa sua, sulla scrivania dello studio di casa sua, un mattone del forno crematorio numero 2 di Auschwitz. È vero. Cosa significa quel motto? Oh, significa... è una sintesi del mio dolore, è il mio dolore materializzato. Io ogni tanto lo tocco per non allontanarmene e lo vedo. E vedo perché è un po' la tomba di mamma, insomma, mia mamma non ha avuto la tomba. Comunque mi fa bene guardarlo ogni tanto. E sta arrivando un altro libro? Sì. Di cosa parla? Il passato ritorna. È una vicenda molto umana, accaduta a un bambino che è stato fatto entrare in Svizzera da degli amici, un bambino piccolo, piccolissimo, che poi cresce in Svizzera e crede di essere cattolico, non sa della sua ascendenza ed è anche abbastanza antisemita. Vive a Lugano, vabbè, questa è una storia, vabbè. Ma dopo c'è... E certo, poi... Viene messo al corrente della sua storia e quindi c'è un travaglio. Tra l'altro io voglio ricordare, invece questo libro che è già nelle librerie, potete leggere, io voglio ricordare A5405, che è il numero di prigionia. A5405, pingisci un steri zero pinch, in polacco. Nedo Fiano, Il coraggio di vivere, un libro che lei nella dedica scrive ai miei figli, ai loro figli, ai figli dei loro figli. Insomma, il senso della memoria, del dovere di ricordare. Il dovere di trasmettere. Ma vede, dimenticare vuol dire uccidere ancora, nel senso uccidere il ricordo vuol dire uccidere un fatto reale accaduto che può essere... invece di insegnamento, cioè quale insegnamento? La libertà è un bene irrinunciabile, non ci possono essere giustificazioni. Quando noi annulliamo il passato, quando cancelliamo tutto, ci ricadiamo. A proposito di questo, lei ovviamente varie volte è tornato poi ad Auschwitz negli anni. Quante volte, se lo ricorda? Sette, otto volte. Approfittando ancora della sua gentilezza, le vorrei far leggere una parte del suo libro, uno di quei frammenti che lei ogni tanto mette per calare nell'oggi, certo. Quello che è il ritorno ad Auschwitz in questo caso. Più volte sono tornato ad Auschwitz e sempre mi sono misurato con la durezza dei miei ricordi. Laddove ho vissuto e sofferto, si riproducono puntualmente, con un crescendo che ormai conosco, le sensazioni di abbandono, di vuoto e di scoramento. Avverto un cambio di pressione, simile a quello che si prova quando con l'aereo si scende da 10.000 metri di altezza per atterrare. Manca l'aria e c'è un'accelerazione del battito cardiaco. Tutto ciò mi arriva regolarmente dopo circa mezz'ora dall'ingresso nel campo. Qualunque cosa stia facendo, devo fermarmi, sedermi, chiudere gli occhi e calarmi nel tempo di 60 anni fa. È vero, il mio corpo non è più quello di allora, ma la mia psiche è ancora la stessa. È come uno svenimento dopo il quale riprendo il contatto con la realtà e per prima cosa mi guardo le unghie delle mani per vedere se c'è ancora il cerchio di sporco che avevo in quel tempo. Allora sono felice, perché sono libero. Fiano, lei ha incontrato tantissimi giovani. Prima mi diceva che è arrivato a quota... 804-805 conferenze. Conferenze, in scuole. So che l'altro ieri ne ha fatta l'ultima, sì, la più recente, sì, con la provincia di Milano. Sì, sì, molto. Cosa le chiedono, se le chiedono qualcosa o l'ascoltano e basta? In realtà questo va correlato col livello scolastico, no? Cioè un conto è parlare con degli universitari, un conto è parlare con dei carcerati. Io ho fatto tutti i carceri di Milano a raccontare E un conto era parlare con i ragazzi della terza media, insomma. Loro hanno la percezione di essere di fronte a una cosa immensamente grande e non sanno molto bene formulare delle domande. Sono aiutati dai loro insegnanti, ma fondamentalmente le domande più ricorrenti sono: come ha fatto a salvarsi? Come il nostro ascoltatore. Eh sì, le dirò che è una vita e me lo domando, cerco di spiegarla, ma ci sono molti punti interrogativi. E poi come ho fatto a riprendere il contatto con la vita quotidiana? Io chiedo, lavoro e famiglia. Il lavoro mi ha fatto riprendere il contatto con le persone, con gli amici, con i meno amici, ma insomma con la società. E la famiglia, è chiaro, quando sono arrivati i figli, la vita è stata... ha avuto tutta un'altra musicalità, ha avuto tutta un'altra spinta. Però non è che tutti abbiano avuto un ritorno così facile. Posso dire fra tutti Primo Levi, il quale ha avuto la più grande delle fortune, la più grande, quella che tutti abbiamo sognato. Lui è arrivato a Torino, è andato subito nella sua strada, alla sua casa, ha salito le scale e in cima alle scale c'era la mamma che l'aspettava. E se io le dicessi le volte che ho sognato questo. Tant'è che quando l'ho incontrato, quando è venuto a presentare se questo è un uomo, ho detto: tu hai vissuto il più grande miracolo che si possa pensare. Hai potuto riabbracciare tua mamma. E allora lui dice: ora abbraccio te, mi ha detto, perché effettivamente è stata una cosa singolare. Comunque il ritorno non è stata una cosa facile, ma no. Noi ci dobbiamo fermare qui. Io voglio ricordare a tutti quelli che ci scrivono dicendo: fate bene, avete fatto bene a trasmettere questa puntata, dovreste ritrasmetterla. Beh, innanzitutto è sul sito e rimarrà per sempre. Anche questo è un modo di perpetuare la memoria, no? Il ricordo. Poi scriveteci vivavoce@radio24.it per chi magari con carta e penna non l'aveva sotto mano, non poteva scrivere bene il titolo del libro, che comunque ricordo Il coraggio di vivere di Nedo Fiano, editore Monti, ma scriveteci, ve lo daremo per bene, così non vi sbagliate. Io non ho granché da aggiungere, grazie. No, grazie anch'io. E ci sentiamo domani con i ringraziamenti come sempre a Elisabetta Fusconi, Alessandro Marco Tulli in redazione, Giorgio Matè in regia. A domattina. Radio 24. La passione si sente.